Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Le fantasticherie di Fabrizio furono interrotte dal falegname della cittadella. Veniva a prendere le misure per le assi alle finestre. Era la prima volta che usavano quella stanza e avevano dimenticato quel particolare essenziale. Così, pensò Fabrizio, non avrò più quella bella vista. E cercava di provare un po' di malinconia per quella privazione. Ma a un certo punto di colpo gridò al falegname: «Un momento! Ma non potrò più vedere gli uccelli!» «Ah, gli uccelli della signorina! Come gli vuol bene a quegli uccellini!» disse il falegname in tono gentile. «Già nascosti, partiti, perduti come tutto il resto!» Il falegname, come tutti i secondini, aveva l'ordine di non parlare assolutamente ai prigionieri, ma quel ragazzo tanto giovane gli faceva compassione. Gli disse che quelle assi, appoggiate al davanzale delle finestre e inclinate all'infuori verso l'alto, dovevano lasciare al prigioniero solo la vista di un po' di cielo. È per la morale, sapete, lo fanno per infondere nell'anima del prigioniero una salutare tristezza e il desiderio di redimersi. Il generale ha avuto anche un'altra bellissima idea, quella di far togliere i vetri e di mettere alle finestre dei fogli di carta oleata. Quel tono ironico, un tono piuttosto raro in Italia, piacque molto a Fabrizio. Come mi piacerebbe avere un uccellino per distrarmi un po'. Li adoro. Perché non me ne compri uno dalla cameriera della signorina Clelia Conti? Ma la conoscete, che sapete così bene come si chiama, disse il falegname. Chi non ha sentito parlare di lei? È così bella, ma io ho avuto l'onore di incontrarla parecchie volte a corte. La povera signorina si annoia molto qui, disse il falegname. Ci passa la vita con quegli uccellini. Questa mattina ha fatto venire delle belle piante d'arancio e le ha fatte mettere davanti alla porta della torre, sotto le vostre finestre. Potreste vederli se non fosse per il cornicione. Il falegname gli aveva dato informazioni davvero molto preziose e Fabrizio riuscì con molto tatto a fargli accettare un po' di soldi. «Sto facendo due cose che non dovrei fare», disse quello. «Parlo a vostra eccellenza e prendo dei soldi. Dopodomani, quando torno per mettere le assi alle finestre, mi porto in tasca un uccellino. E se non siamo soli, faccio finta che mi scappi. E se posso, vi porto anche un breviario. Deve essere brutto per voi non poter dire l'ufficio». Quando il falegname se ne fu andato, Fabrizio incominciò a pensare: «Così sono proprio suoi quegli uccellini, ma tra un paio di giorni non potrò più vederli». C'era una gran malinconia adesso nei suoi occhi, ma continuò a stare alla finestra, a guardare, e finalmente, verso mezzogiorno, vide Clelia, che entrava nella stanza per badare ai suoi uccellini. Fabrizio restò lì in piedi, immobile, senza neanche respirare, schiacciato contro l'inferriata. Clelia non guardò mai verso l'alto, ma Fabrizio si accorse che aveva un'aria imbarazzata, come se si sentisse guardata. Il fatto è che lei, povera ragazza, non avrebbe mai potuto dimenticare quel sorriso sottile che aveva visto passare sulle labbra del prigioniero il giorno prima, mentre i gendarmi lo portavano fuori dal corpo di guardia. Era evidente che Clelia si sforzava di dominarsi, ma quando si accostò alla finestra diventò tutta rossa. In un primo momento Fabrizio, sempre schiacciato contro l'inferriata, fu quasi tentato di lasciarsi andare come un ragazzo a picchiettare con la mano sulle sbarre, ma subito l'idea di quella indelicatezza gli fece orrore. Meriterei che per 8 giorni mandasse la cameriera a curare gli uccelli. Continuava a guardarla, emozionatissimo. Ecco, pensava, adesso andrà via senza neanche degnarsi di dare un'occhiata verso questa povera finestra, eppure ce l'ha proprio di fronte. Ma venendo verso la finestra, Fabrizio dall'alto poteva vedere tutto, Clelia non riuscì a trattenersi e, continuando a camminare, alzò gli occhi. Questo bastò a Fabrizio per sentirsi autorizzato a salutarla, pensando, per farsi coraggio, è come se fossimo soli al mondo qui. Clelia si fermò, abbassò gli occhi, poi li alzò di nuovo, ma lentamente, e facendo un grande sforzo su se stessa, lo si vedeva benissimo. Salutò Fabrizio con aria grave, distaccata, ma i suoi occhi lei non aveva potuto farli tacere. Forse non se n'era neanche resa conto, ma erano pieni di compassione. Entrando nella stanza, si era buttata indietro sulle spalle il suo scialle di pizzo nero, e adesso Fabrizio vide che era diventata così rossa che quel rossore le era sceso fin sul collo. Poi Fabrizio, senza volerlo, rispose con uno sguardo intenso al suo saluto. Lei ne fu ancora più confusa, cercò di pensare alla duchessa. Come sarebbe contenta, povera donna, se potesse vederlo anche solo per un momento, come lo vedo io. Fabrizio aveva quasi sperato di poterla salutare di nuovo quando se ne sarebbe andata, ma per evitare un ulteriore scambio di cortesie, Clelia fece una abilissima ritirata graduale, passando da una gabbia all'altra in modo da tenere per ultima quella più vicina alla porta. Era uscita adesso. Fabrizio era ancora lì, immobile, a guardare la porta. Era un altro uomo. Da quel momento pensò solo a una cosa, a come avrebbe potuto fare per vederla ancora, anche dopo che avessero messo quelle maledette assi davanti alla finestra che dava sul palazzo del governatore. La sera prima aveva perso un bel po' di tempo a nascondere l'oro che aveva addosso nei buchi fatti dai topi che ornavano la sua stanza di legno. Stasera bisogna che nasconda anche l'orologio. Dicono che con un po' di pazienza e una molla d'orologio seghettata si può tagliare il legno, perfino il ferro. Potrei fare un buco in quelle assi. Gli ci vollero 2 ore per nascondere l'orologio, ma il tempo passò in fretta. Continuava a passare in rassegna i diversi modi per riuscire nel suo scopo. Cercava di farsi venire in mente tutte le sue nozioni di falegnameria. Mi basta riuscire a vederla, non voglio altro. No, un momento. Voglio anche che lei veda che io la vedo. Passò tutta la notte con la testa piena di trovate di falegnameria, senza neanche pensare una volta alla corte di Parma, alla collera del principe e a altre cose del genere. E bisogna dire che non pensò neanche al dolore che doveva provare Gina. Aspettava ansiosamente che si facesse giorno, ma il falegname non tornò. Evidentemente lo consideravano un liberale nella prigione, e così ne mandarono un altro, un tipo con una faccia spaventosa che si limitò a rispondere con scoraggianti grugniti alle frasettine gentili escogitate da Fabrizio. Sarebbero venuti a mettere le assi alla finestra prima di mezzogiorno? Questo fu il grave interrogativo che fece battere il cuore di Fabrizio durante quell'interminabile mattinata. Teneva il conto dei quarti d'ora che suonavano all'orologio della cittadella. Alle 12:15 le assi non erano ancora arrivate. E Clelia entrò nella stanza a curare i suoi uccellini. La dura necessità aveva fatto fare grandi passi all'audacia di Fabrizio. Il pericolo di non poterla più vedere gli sembrava talmente al di sopra di tutto che osò guardarla e fare con la mano il gesto di segare le assi alla finestra. Ma è anche vero che lei, subito dopo aver notato quel gesto così sedizioso per una prigione, gli fece un mezzo saluto e andò via. «Ma come?» pensò Fabrizio tutto stupito. «Non sarà così irragionevole da credere che io abbia voluto prendermi delle stupide confidenze. Era un gesto dettato dalla più imperiosa necessità. Volevo soltanto pregarla di degnarsi di dare un'occhiata alle finestre della prigione anche quando ci saranno le assi. Volevo farle capire che farò tutto quello che è umanamente possibile pur di riuscire a vederla. E se si è offesa per quel gesto indiscreto e domani non torna?» Fu un pensiero che lo agitò tutta la notte e che si dimostrò giusto. Il giorno dopo Clelia non si fece vedere e alle 3 erano ormai stati sistemati gli enormi schermi di legno davanti alle finestre di Fabrizio. È vero che Clelia, stando nascosta dietro una persiana, aveva seguito tristemente tutto il lavoro, e è anche vero che aveva notato l'angosciosa inquietudine di Fabrizio, ma aveva giurato di non farsi vedere e riuscì a resistere. Clelia era una piccola liberale faziosa. Da ragazzina aveva preso sul serio tutti i discorsi che sentiva fare nell'ambiente di suo padre, mentre lui in realtà si preoccupava soltanto di farsi una posizione. Era arrivata a disprezzare il servilismo e l'arrendevolezza della gente di corte, a averne quasi orrore. Era da qui che veniva la sua antipatia per il matrimonio. Da quando era arrivato Fabrizio si sentiva piena di rimorsi. «È orribile quello che sto facendo», pensava. «Mi sto mettendo dalla parte di quelli che vogliono tradire mio padre. Ha avuto il coraggio di farmi capire che avrebbe segato una porta». E subito dopo, disperata: «Ma tutti dicono che tra un po' lo uccideranno. Potrebbe essere anche domani. Tutto è possibile con quei mostri che ci governano. Forse queste sono le sue ultime ore di vita. Eppure c'è tanta dolcezza, tanta serenità, una tale forza nei suoi occhi. Povera duchessa, come deve soffrire. Dicono che è fuori di sé. Io lo ucciderei, il principe, a pugnalate, come Carlotta Cortè». Tutto quel terzo giorno di prigionia, Fabrizio lo passò in preda a un umore spaventoso, ma soltanto perché Clelia non si era fatta vedere. Tanto valeva dirle che mi sono innamorato di lei, pensava, perché ormai aveva scoperto di esserne innamorato. Il fatto è che continua a venirmi in mente quel suo sguardo pieno di compassione, quando i gendarmi mi portavano fuori dal corpo di guardia. È come se quello sguardo avesse cancellato tutto il passato. Chi me l'avrebbe detto che avrei trovato proprio in un posto come questo una persona capace di guardarmi con tanta dolcezza? Mi sentivo come sporco a vedermi intorno quei tipi, Barbone, il generale. E poi è venuta lei come un angelo all'inferno. È impossibile non amare la bellezza, non cercare di rivederla. Si mise a fantasticare su tutto quello che sarebbe potuto succedere. Arrivò a considerare l'eventualità che lo rimettessero in libertà. Certo, Gina mi vuol tanto bene che farà miracoli, ma non credo che la ringrazierei con molto calore se mi facesse uscire di qui. Non è un posto in cui si possa tornare, questo. Una volta fuori di prigione, legati come siamo a ambienti diversissimi, finirei per non veder più Clelia. Del resto, che fastidio mi dà la prigione? Se Clelia non fosse tanto in collera, avrei tutto quello che voglio. La sera di quel giorno, che aveva passato senza vedere la sua bella vicina, gli venne un'ottima idea. Con la croce di ferro del rosario che gli avevano dato, come a tutti i prigionieri, a suo ingresso alla cittadella, incominciò a fare un buco nello schermo di legno che chiudeva la finestra. Dopo 15 ore di lavoro, riuscì a vederla. E la cosa stupenda fu che Clelia, convinta di non essere vista, rimase a lungo immobile a guardare l'immenso schermo di legno, e Fabrizio ebbe tutto il tempo di vedere quanta compassione, quanto affetto c'erano in quegli occhi. Verso la fine, Clelia non badava neanche più ai suoi uccellini, stava lì, ferma, a guardare verso la finestra della prigione. Era tutta agitata, pensava alla duchessa che le aveva fatto tanta compassione, eppure incominciava a odiarla. Si sentiva triste, molto triste, e non capiva, e se la prendeva con se stessa. Un paio di volte a Fabrizio venne voglia di battere sulle assi. Non riusciva a tollerare che Clelia non sapesse che lui la stava vedendo, ma poi pensava: no, è così timida, così riservata, se sa che la sto guardando va via subito. Il giorno dopo andò molto meglio. Basta proprio niente a far felice un innamorato. Mentre Clelia guardava triste triste l'immenso schermo di legno, Fabrizio riuscì a far passare un pezzetto di fil di ferro attraverso il buco aperto con la croce e le fece dei segni. E lei capì almeno che quei segni volevano dire: sono qui e vi vedo. A Fabrizio pareva che la severità di Clelia diminuisse con l'aumentare delle difficoltà materiali che venivano a ostacolare i loro rapporti. Vide che quando lui cercava di segnalarle la propria presenza agitando quel misero pezzettino di fil di ferro, Clelia non abbassava più gli occhi ostentatamente, non fingeva più di guardare gli uccelli, e fu anche molto soddisfatto nel constatare che lei immancabilmente veniva nella stanza degli uccelli nel preciso momento in cui suonavano le 11:15. Fu persino così presuntuoso da pensare che doveva essere per lui che Clelia era così puntuale. Un'idea non molto ragionevole, certo, ma il fatto è che un innamorato sa distinguere sfumature che gli altri non percepiscono e sa anche trarne un'infinità di conseguenze. Da quando non poteva più vedere il prigioniero, Clelia, appena entrata nella stanza degli uccelli, alzava gli occhi verso le finestre. Erano quei lugubri giorni quando tutti a Parma pensavano che Fabrizio sarebbe stato ucciso molto presto. Fabrizio era l'unico a non saperlo, ma Clelia continuava a pensarci e non poteva considerare una colpa il fatto di provare tanto interesse per lui. Stava per morire e per la causa della libertà, perché era troppo assurdo che si mandasse al patibolo un del Dongo solo per un colpo di spada dato a un attoruculo. È vero che quel simpatico giovanotto era legata a un'altra donna. Clelia si sentiva molto infelice e senza neanche cercare di mettere in chiaro di che genere fosse il proprio interesse per Fabrizio, pensava: se lo uccidono, vado in convento. Non mi farò mai più vedere da questa gente. Mi fanno orrore. Assassini con belle maniere. Ecco che cosa sono. L'ottavo giorno capitò qualcosa per cui Clelia dovette vergognarsi terribilmente. Assorta nei suoi pensieri malinconici, stava fissando lo schermo di legno davanti alla finestra della prigione. Lui non le aveva ancora fatto nessun segno e improvvisamente un pezzetto di tavola fu levato dall'interno e vide la faccia di Fabrizio tutta allegra e lui che la salutava con gli occhi. Clelia non poté reggere a questa prova inaspettata. Si voltò in fretta e cercò di badare agli uccelli, ma le tremavano le mani. Continuava a rovesciare l'acqua che stava cercando di versare nelle gabbiette. Fabrizio poteva vederlo benissimo, come lei era emozionata. Clelia non ne poteva più e finalmente decise di scappar via di corsa. Per Fabrizio era stato il più bel momento della sua vita, senza confronti. Se in quel momento gli avessero offerto la libertà, l'avrebbe rifiutata con entusiasmo. Il giorno dopo fu il giorno della grande disperazione della duchessa. In città tutti erano convinti che per Fabrizio fosse ormai finita. Quel giorno Clelia non riuscì a fingere, a mostrarsi severa. Rimase un'ora e mezzo nella stanza degli uccelli. Stette a guardare tutti i segni che lui le faceva e molte volte cercò di rispondergli, se non altro con sguardi molto intensi. Ogni tanto si voltava per non fargli vedere che stava piangendo. La sua eccitata sensibilità di donna si rendeva conto di quanto fosse rudimentale quel linguaggio. Se si fossero parlati, quanti modi diversi lei avrebbe saputo escogitare per cercar di capire quello che Fabrizio provava veramente per Gina. Ormai Clelia non riusciva quasi più a nasconderlo. La odiava, la signora Sanseverina. Una notte Fabrizio si mise a pensare un po' seriamente alla zia. Era strano. Doveva fare uno sforzo per ricordarsi la sua faccia. Nel suo ricordo Gina era completamente cambiata. Adesso per lui era una donna di 50 anni. «Santo cielo!» disse a voce alta con slancio. «È stata una vera ispirazione non averle mai detto che l'amavo». Quasi non riusciva a capire come mai gli fosse potuta sembrare tanto bella. Da questo punto di vista, la Marietta, se cercava di farsela venire in mente, gli sembrava che non fosse poi tanto cambiata nel ricordo e che non gli era mai passato per la testa che nei suoi rapporti con la Marietta c'entrasse l'amore, mentre invece molte volte gli era sembrato di essere legato a Gina da un sentimento profondo. Adesso la duchessa di A e la Marietta gli facevano l'effetto di due giovani colombe le cui sole grazie fossero la debolezza e l'innocenza. Ma la sublime immagine di Clelia era talmente dentro di lui a colmarlo, a dominarlo, che ne provava un vero terrore. Lo sapeva fin troppo bene. Ormai doveva fare i conti con lei. Gioia, dolore, tutto dipendeva da lei, e gli faceva spavento pensare che sarebbe bastato che Clelia cambiasse idea così all'improvviso, irrevocabilmente, per troncare di colpo quello strano incanto che stava vivendo vicino a lei. Quella felicità, comunque, durava già da 2 mesi, i suoi primi 2 mesi di prigione, e intanto 2 volte alla settimana il generale Fabio Conti andava dal principe a dirgli: «Posso dare a vostra altezza la mia parola d'onore che il prigioniero del Dongo non può scambiare una parola con anima viva e passa le giornate a disperarsi o a dormire?» Clelia veniva nella stanza degli uccelli 2 o 3 volte al giorno, qualche volta anche solo per un attimo. Se Fabrizio non fosse stato tanto innamorato, gli sarebbe stato facile capire che lei lo amava. Ma in realtà era pieno di dubbi spaventosi a questo proposito. Clelia aveva fatto portare nella stanza degli uccelli un pianoforte e, mentre suonava, per segnalare la sua presenza e per distrarre le sentinelle di guardia sotto le sue finestre, continuava a rispondere con gli occhi alle domande di Fabrizio. Solo in un caso non rispondeva o scappava via addirittura. E certe volte stava un giorno intero senza farsi vedere. Era quando i segni di Fabrizio alludevano a sentimenti che era proprio impossibile fingere di non capire. Su questo punto lei era inesorabile. Così, benché fosse chiusa a doppia mandata in una prigione, Fabrizio aveva una vita molto occupata. C'era da risolvere un problema troppo importante. «Mi ama?» continuava a pensarci, e poi a mettere in dubbio quello che aveva pensato, e la conclusione era sempre la stessa. Da come si comporta, da come vuole comportarsi, sembra che non mi ami, ma certe volte, senza volerlo, mi guarda in un modo. È come se mi dicesse che un po' di bene me lo vuole. D'altra parte, c'era una cosa che non sapeva, e che se l'avesse saputa lo avrebbe fatto soffrire terribilmente. Si faceva un gran parlare del matrimonio di Clelia Conti con il marchese Crescenzi, l'uomo più ricco di tutta la corte. Pietro Biondi ha letto La Certosa di Parma di Stendhal. Riduzione di Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.